E mi dicono che avete anche dei cognomi tipo Maddalena Papini e Mamadou Camara. Mamma mia, incredibile, ci hanno dato anche quello. Adesso poi ti devo chiedere una cosa, perché hai un cognome simile a qualcun altro che ha lo stesso cognome. Magari vi conoscete, sai che c'è questa cosa dei sei contatti di conoscenza. Sì, esatto, i sei gradi di separazione. Ma poi Bologna è proprio borgo. È abbastanza piccolo. Loro due sono Doc, Mamadou, noi invece avremo delle altre persone in comune. Certo. E anche Camara è un cognome bello diffuso in Africa, eh? Ce n'è tanti. Grande. Allora, vicini distanti, volete raccontarmi un po' da dove nasce, quando nasce questa esperienza e un po' l'inizio, l'origine di questo progetto che ha a che vedere non soltanto con la moda, ma tocca tantissimi altri progetti creativi, umani, collaborativi, educativi, laboratoriali, e insomma abbiamo tantissimi punti di partenza per poi insomma aprire delle conversazioni. La prima domanda è: chi siete e come nascete? Ok, quella bella domanda. Prima cosa che devo fare, devo salutare tutti. Certo. Sì. Quando sono arrivato in Italia qui nel 2015 ho conosciuto la sorella di Maddalena da un centro d'accoglienza. Quindi la colpa di sua sorella io la conosciuto. Abbiamo creato è diventata una colpa. Sì. Cominciamo con le colpe, certo. Dopo ce ne ho anch'io, eh. Quindi abbiamo fondato quella piccola associazione insieme. La salutiamo la sorella della Maddi? Sì, certo. Ciao Francescanino. Avete rotto il mix. Scusate. No, figurati, non ti preoccupare. Tra un po' ci cazzano. Urla come se non ci fosse un domani. abbiamo qui in radio abbiamo una scatoletta che fa sì che solo le mie orecchie sono saltate. Scusaci. Ma non quelle dei nostri ascoltatori. Okay. Perché va bene. Quindi Mamadou, hai conosciuto Francesca e Francesca ti ha portato a Maddalena. Sì, Francesca, la colpa di Francesca, ho conosciuto Maddalena. Quindi abbiamo fondato quell'associazione insieme. Che anno era più o meno? Nel 2016. Io volevo dire a Francesca che se per caso vuole discolparsi può messaggiare, così come tutti gli altri, al 333 180 94 94, sia via WhatsApp, SMS che Telegram. Grande, perché d'altronde avendole dato la colpa di esservi conosciute, adesso giusto, magari lei appunto ha diritto a dire qualcosa, no? Quindi dai. Giusto, no? Ma dopo c'è la versione dei fatti anche da parte mia, ah, giusto? Okay. Molto bene. Quindi siamo nel 2016, Mamadou, per colpa di Francesca, che questa sera si prenderà le colpe secondo me di tutta la nostra conversazione, sì, certo. Abbiamo trovato il capro espiatorio. Arriviamo a te, Maddalena, che dici la tua versione dei fatti, come... Ma lascialo un po', perché c'è ancora un pezzettino che deve dire. Cosa hai conosciuto Francesca? Anche perché non vorrei dire, ma i nostri ascoltatori non stanno capendo niente. Io mi metto sempre nei loro panni. No, dai, non è vero, adesso... Allora, ai nostri ascoltatori che si sono appena collegati adesso, siamo su Radio Città Fujiko, Cox Spaziale, i nostri ospiti, Maddalena e Mamadou, di Vicini Distanti, un progetto che nasce nel 2016 per colpa di Francesca, che vorrei sottolineare. Per me, per colpa di Francesca. Okay. Stasera la colpa è sua. E fondano, che cosa fondate? Fondate un'associazione. Poniamo un'associazione tra italiani e tra africani che hanno voglia di fare delle cose insieme. È chiaro che all'inizio, ci conoscevamo da poco, abbiamo cercato di mettere insieme le competenze, le passioni di ciascuno. Però l'idea iniziale era di cercare di cambiare la percezione dei migranti in Italia attraverso la bellezza, attraverso lo stare insieme. Un compitino da niente, insomma. Esatto, no? Quei sogni, diciamo, okay, da nulla. E io la mia versione invece è per colpa di Mamadou. Eccolo. Adesso la dico perché okay, ci sta, nel senso che Mamadou, quando aveva 12-13 anni, mm-hmm, e quando c'erano le lezioni di matematica a scuola, lui faceva fughino. Mm-hmm. Che cosa faceva nelle sue giornate di fughino? Andava dal suo zio, che fa faceva, guarda un po', il sarto. Hai capito. Quindi, eccolo. Se non fosse stato per le lezioni di matematica e le sue fughe, eccolo. Non esisterebbe nulla di tutto ciò. Perché io lo dico sempre, se Mamadou fosse stato un calzolaio, fosse stato, che ne so, uno chef, oggi certo. faremo sicuramente altre cose. Quindi Mamadou certo. ha portato la moda in questo progetto di diciamo scambio di prospettive tra migranti e la bellezza. È un progetto, insomma, che nasce qua in Italia, portando una componente, tu dicevi prima, estetica, attraverso quindi il design della moda. Sì, assolutamente. Quindi, poi lui era già sarto quando io l'ho conosciuto. Quanti anni è che fai sarto ormai? Perché quando eravano 13 anni potevano andare a Musia per imparare quello lavoro. Quindi oggi? 33. Sono 20 anni. Sono 20 anni. Che 20 anni sarto. Che tu fai sarto. Sì, tuo quindi... zio come si chiama? Lui si chiamava Nazumana. Nazumana, sì. Nazumana. Bene, allora grazie Nazumana che ti ha passato un sapere veramente molto molto figo. Grazie. Si può dire. Io adoro chi sa cucire, perché sono autodidatta e vorrei saperlo fare molto meglio. Okay. Però diciamo che non sono tra le mie velleità. Quindi nasce Vicini Distanti, già chiamata così, battezzata così nel 2016. Questo è merito di Francesca. Merito di Francesca. Perché stavolta. Il nome l'ha dato Francesca, che appunto è una delle ideatrici, no? Proprio di, oltre che averci fatto conoscere, aver fatto scoppiare questa bomba, perché siamo due caterpillar, quindi insomma abbiamo portato avanti un progetto negli anni. E l'idea proprio appunto di stare vicini, ma rispettando comunque la distanza, nel senso l'alterità, no? Cioè di poter comunque rispettare le differenze, cercare anche di valorizzarle. Chiaro che la moda, che è un linguaggio e che è anche un'arte, ci ha aiutato in questo senso, perché siamo in Italia, quindi abbiamo delle eccellenze sia da un punto di vista della tradizione proprio della moda, ma anche dei tessuti, dei materiali. E lui e altre persone poi dopo di lui hanno portato le eccellenze, le bellezze dei loro paesi. Certo. Quindi è venuto fuori qualcosa di unico, no? Nel senso che appunto abbiamo cercato di unire questo grazie appunto al linguaggio della moda. Certo, disegnando le vostre collezioni, io qualcosina lo so, però te lo chiedo come se non lo sapessi. No. Perché se no poi Stefano mi sgrida che non no, si capisce niente stasera. Comunque, disegnando delle vostre proprio collezioni dalla A alla Z, no? Quindi creando anche delle sfilate, creando una collezione uomo-donna, ready-to-wear. Come sono strutturate un po' le vostre creazioni, come si strutturano? Ma, allora, diciamo che la particolarità, direi che l'aver cercato sempre di mettere insieme, è chiaro, in un work in progress negli anni, però abbiamo sempre cercato di mettere insieme quello che può essere uno stile occidentale con invece tessuti prevalentemente africani. Su questo certo. ci tengo a dire che tessuti africani vuol dire proprio made in Africa, perché mm-hmm. questo è una cosa che sembra scontata, ma in realtà non lo è. Grazie a Mamadou e ad altre persone con cui siamo entrati in contatto, io ho avuto addirittura il piacere proprio di andare a visitare alcune di queste aziende. Dove sono? In Africa occidentale prevalentemente prendiamo i tessuti, che appunto utilizzano ancora delle tecniche artigianali, valorizzano tutti i saperi tradizionali che ci sono dietro, e poi appunto con questi tessuti bellissimi cerchiamo di fare comunque un ready to wear o comunque collezioni appunto portabili anche dagli italiani o comunque dagli occidentali, chiaro. Per adulti? Uomo sì, e donna. Adulti, ma Mamadou cuce tutto, Sì, noi facciamo vestito uomo, donna, bambino, tutto. Certo, e come si riconosce un tessuto, il cosiddetto wax, giusto? Si chiama wax. Come si riconosce un tessuto made in Africa rispetto a uno magari contraffatto o spacciato come un tessuto africano, ma che in realtà viene esportato da qualche altro paese? Cioè, tipo dal mio paese, quando io vedo un tessuto che vengono dal mio paese, l'ho conosciuto, quando io vedo un tessuto che vengono da Senegal, lo conosco. Certo. Capito? Lo perché vedi come è diverso, fatto proprio? Sì. Da come lo tocchi? Quando lo toccano, perché il nostro tessuto è un po' leggero. Quindi certo. L'altro è un po'. Non è proprio leggero, è un po' duro, hai capito? L'altro. Quindi c'è un po' di diverso. Ho capito. C'è anche qualche tipo di certificazione scritta nel tessuto di modo da poter riconoscerlo anche? Sì, certo, quando si vede il nostro tessuto è scritto, è tipo è Wax Côte d'Ivoire. Capito? Ok. Qua Senegal, cioè è diverso, no? Certo, sì. certo, d'accordo. Quindi tu vieni dal Senegal, da che città? Io vengo da Costa d'Avorio, non da Senegal. Ok, Costa d'Avorio, sì. Perfetto, benissimo. Che città puoi dirlo? Abidjan. Abidjan? Sì. Ok. Abidjan. Che sarebbe di fatto un po' la capitale della moda in Africa, no? Cioè è una delle città dove proprio pullulano, a parte fabbriche, comunque tutta l'Africa occidentale ci sono tantissimi produttori di tessuti. Certo. E poi c'è proprio una tradizione e lui appunto era uno di questi sarti, lui aveva la sua bottega, insomma era un sarto conosciuto, quindi io, a parte le colpe dell'uno o dell'altra, io sono in realtà molto contenta, dico sempre ti sentimi molto fortunata perché appunto aveva una professionalità che mi ha molto appassionato, mi ha molto preso e poi abbiamo appunto fatto un po' di strada assieme. Certo, io non sto più nella pelle dal dire che i pantaloni che ho addosso infatti sono stati cuciti con Mamadou, certo. E anche la direzione artistica della Mandy. Beh, diciamo, sì, quindi, vabbè, dai. Comunque insieme. Quindi che cosa fate oltre alle vostre collezioni di ready to wear, le vostre collezioni di, diciamo, valorizzazione di tessuti africani? Fate anche dei laboratori, no? Vuoi dire tu? Parlo io? Sì. Ma allora, noi abbiamo in San Mamolo, che è appunto una sede dove abbiamo le macchine, dove c'è la possibilità di ospitare più persone. E quest'anno abbiamo potuto organizzare finalmente dei corsi di cucito sostenibile, dove appunto abbiamo conosciuto Mia certo. E dove appunto abbiamo cercato di mettere a frutto tutto quello che negli anni o ci è stato donato o noi siamo riusciti ad andare a recuperare da appunto o magazzini che chiudevano o fine serie eccetera, e quindi poter dare una seconda vita a capi che magari erano diciamo a fine corso, insomma comunque necessitavano di qualche certo. riparazione, e quindi con piccoli aggiusti, con piccole decorazioni, in realtà poi il fine ultimo era cercare anche di mettere nei giovani ai quali era rivolto proprio questo corso di refashion l'idea. Io molto giovane. Beh, insomma, giovani tra i 18 e i 35. Grande, grande, ci sono, ci grande. Sono, rientro. Appunto, non ero un'intrusa. Non ero troppo intrusa, dai. E insomma, appunto, l'idea proprio di veicolare il concetto che appunto un capo in realtà ha tante vite, no? Quindi sì, è vero, noi siamo una sartoria, facciamo anche gli abiti su misura, da un certo punto di vista è bella questa cosa, ma è altrettanto bella, e Mamadou è molto bravo anche a fare le riparazioni e a dare uno stesso valore, anzi sapendo che la moda è il secondo settore più inquinante al mondo, poter anche dare sì. un aiuto in questo senso alla circolarità sì. Ci ha fatto proprio pensare a questo corso di tra l'altro cofinanziato dall'Unione Europea, certo. dal progetto DEAR, e quindi insomma è stata anche una bella iniziativa all'interno poi di altre iniziative fatte durante l'anno, perché chiaro, facciamo i corsi di cucito sostenibile, certo. e altre iniziative come appunto conferenze sulla moda etica eccetera. Certo. grazie, grazie mille Stefano per questo pezzo, hai messo il mio preferito, i Paradis. Beh, me l'hai spedito tu. Grazie mille, grazie mille, speravo che ti piacesse per poterlo ascoltare stasera, è uno dei miei pezzi preferiti. Bello infatti, devo dire. Ma torniamo a noi. Torniamo io a noi. Avevo una domanda che se mi permettete la faccio, ma quando sei venuto in Italia, Mamadou? Io ho avuto un problema generale dal mio paese, quindi quello che ho scappato dal mio paese. Sei scappato e dunque sei venuto qui, ma sì, tempo fa? Quando io sono scappato dal mio paese nel 2014. Ok. Quindi quando sono arrivato in Libia è meglio. Quando arrivo sei passato dalla Libia? Sì, sì, quando arrivo in Libia non posso vivere in Libia, perché tu vai dai prigione o prendi al mare per venire qua. Quindi certo, abbiamo rischiato, siamo arrivati qui. Ok. Per il mare. Per il mare. E quando sei arrivato qui, cosa è successo? Sono arrivato qua nel 2015, in Italia. E come sei arrivato a Bologna? Per caso? Come mai ti sei fermato a Bologna? Quando sono arrivato a Sicilia, allora mi hanno portato a Bologna, Centro Mattei. Centro Mattei? Ho capito. Ah, ho capito. Che è un centro bolognese? Sì, sì, sì. Okay. Sì. Esiste ancora il Centro Mattei? Sì, sì, sì. Okay. Sì, sì, sì, sì. Ho capito. E dunque, cosa è successo? Poi, hai voglia di raccontarmi? Perché io sono curiosissimo di capire queste dinamiche. Sì, quando io sono arrivato in Centro Mattei, loro mi hanno portato da un centro d'accoglienza, quindi... Ma ti hanno chiesto cosa sai fare, che cosa sì, vorresti fare? Sì, quando sono arrivato lì loro mi hanno chiesto cosa sai fare. Io ho parlato con loro che io sono un sarto. Ok. Quindi nessuno mi credeva, perché c'è tante persone che arrivano... Ah certo, dicono io sono il primo ministro. Sarto, io sono così. Okay. Quindi la prima volta quando io conosco Maddalenino, lei mi ha portato tipo tre cuscini da cucire. Sei usato, fammi vedere subito, c'ho da riparare questi tre cuscini, grande. Ho fatto quello tre cuscini velocissimo, anche il bordo tutto. Conferma, quindi, un drago, mamma, due a cucire è una cosa più veloce. Sì, sì, sì, sì, sì. I suoi cuscini li hai cuciti a mano, sì, o a macchina? No, ho cucito, avevo un piccolo macchina a casa, quindi ho fatto quello. Francesca mi ha detto, mamma mia Mamadou, ma sì, tu sei un sarto, tu sei un sarto, bravo. Sì, sì, sì. Ok, allora dopo posso raccontare con mia sorella. Ho detto ok, allora io vado a casa. Sono scappato per andare a casa. Dopo Maddalena mi ha chiamato, dobbiamo fondare un'associazione insieme. Ho detto E dunque ti ritieni fortunato di aver incontrato queste due, sì, sciroccate, certo, qua? Oppure... Lei è molto brava, abbiamo fatto un po' di guerra, ma adesso mi sembra che vi stiate divertendo in questa associazione. Certo. Mi viene voglia di venire a fare un corso di cucito anch'io, perché fra l'altro anche a me piace giocare con la macchina da cucire, ma piacere, non posso dire che la so usare. Dov'è il posto di nuovo? Via San Mamolo. Via San Mamolo 139 c'è la sede, diciamo, dove abbiamo il laboratorio, e quindi lì, se volete fare dei corsi di cucito o venire anche solo a salutarci, perché poi lo spazio è molto grande, d'estate abbiamo anche un bel terrazzone dove cerchiamo di fare sempre delle cose all'aperto e invitiamo artisti e facciamo mostre, quindi insomma, come più facciamo idee a venire? Ma allora, noi abbiamo i canali, insomma, social, così. Quali sono? Citiamone alcuni. WhatsApp, Instagram, Facebook, sito internet, insomma. Sito siamo... internet vicinidistanti.com. Esatto, ci siamo dati da fare. Adesso il sito è un po' work in progress, però insomma Instagram cerchiamo di seguirlo. E invece poi le altre attività le facciamo nel new shop, nel nuovo negozio che abbiamo aperto in via Castiglione. Wow. Che è 14. Dove sta Mamadou. Hai capito. Dove sta Mamadou, che ormai è diventato il sarto di quartiere. Grazie. Che per me, devo dire, se devo fare una scala di... per me è il top, cioè, perché certo, che lui sia diventato di un quartiere bolognese. Infatti, cioè, un quartiere bello, anche bello chic, ecco, diciamo, bello chic, e invece è stato accolto benissimo. Magari lo può raccontare anche lui, no? però fra un po', perché vi devo far tornare nel mondo reale, dove Radio Città Fujiko ha le pubblicità delle 7:30. Vai. Nessun problema. Coxo spaziale. all'arena famo, o in biglietteria. Siamo tornati, eccoci qua. Però io comunque tentavo di nuovo di farvi sentire questa cosa qua. Buongiorno. Che è il nostro Marco Roma che canta. Faccia la finestra e pensi a me. Se c'è il sole o c'è la pioggia, pensi a me. Sei un uragano di follia e d'amore, pensi a me. Tu pensi a me. Ciao da Marco Roma, buongiorno. Ciao Marco. Wow. Grande Marco Roma. No, perché mi chiedevo appunto, oggi non parliamo di Sanremo, però mi chiedevo se dopo Sanremo Marco Roma avrebbe fatto qualcosa, esatto, di più sanremico. Invece no, assolutamente, è vero proprio. Ha fatto il suo solito show. Che però ultimamente, da quando lo mettiamo a Cox Spaziale, ho notato che si è spostato a lunedì. Per cui non so se Marco ci sta ascoltando, però se vuoi puoi mandarci dei vocali dalle 19 alle 20. Insomma. Sì, scrivici un WhatsApp al 333-1809-494. Sì, ma lui credo che ce l'abbia in memoria. Lo volevo leggere perché ce l'avevo qua davanti. Considerando il numero, adesso voi non li vedete, ma io qui nella memoria del tablet della radio ho tipo una cinquantina di suoi vocali. Potremmo fare un CD delle canzoni di Marco Roma. Grande. Sì, così. Grande, torniamo a noi, naturalmente. No, e dunque la, di fatto l'associazione nasce perché Mamadou è un sarto e sa fare tutte queste cose, cioè è stata una diciamo tua idea, che negli no? anni, diciamo così, negli anni l'associazione ha fatto tantissime cose anche di vario genere. E, nel senso che abbiamo fatto corsi prepatente per aiutare i ragazzi a trovare un lavoro, mm-hmm. abbiamo fatto veramente cose le più disparate come associazione, poi un po' per le loro capacità e un po' anche per le forze dei volontari, che comunque non è mai semplice avere persone. E quindi se qualcuno volesse fare volontario, ma viene, anzi, e ben suona venga, campanello. Ben venga se qualcuno in ascolto ha voglia di fare un po' di sano volontariato. E magari nel frattempo imparare anche qualcosa, no? Facciamo anche i tirocini. Se qualcuno ha delle classi di matematica da saltare, esatto, giusto per seguire la tradizione. Che parfumino. Ci può stare. Quindi poi sì, ci siamo concentrati su quello perché quella lui era molto bravo, aveva voglia anche di insegnare quello che sapeva fare, per cui poi sono nati dei progetti uno di seguito all'altro in modo molto spontaneo, nel senso che prima abbiamo cominciato a fare dei corsi, dei tirocini, e sono passate tantissime persone in sartoria, straniere, italiane, di tantissime origini, e poi per fortuna il cucito ci si capisce anche se la lingua non è proprio quella, certo. E quindi insomma dopo poi sì, diciamo, abbiamo fatto soprattutto quella, certo, strada, perché poi quella strada ci ha permesso anche di fare eventi outdoor, cioè per esempio raccontavo prima della narra sfilata. La narra sfilata è un format che poi abbiamo portato in varie città d'Italia, che sarebbe una sfilata narrazione, quindi ogni tappa, certo, della sfilata corrisponde a una delle tappe del viaggio dei ragazzi che sono arrivati dall'Africa, diciamo quelli che arrivano dall'Africa occidentale, dove un italiano e un africano, certo, raccontano appunto di questi paesi che vengono percorsi. Ed è una performance artistica, sì, ma al tempo stesso fa anche riflettere, perché molto, tante volte magari uno dice sì, vado a vedere una sfilata e si immagina certo, Frizzi e Lazzi, e invece c'è gente che alla fine arriva lì con quasi lacrimoni, che dice mamma mia, che robe che ci avete raccontato. È proprio anche una camminata, ripercorrere la camminata che loro hanno fatto, e che tante volte magari per pregiudizio non si sa che c'è stata, insomma, comunque si pensa perché poi sempre uno non ci pensa, ma tendenzialmente si viene a piedi in Europa, sì, che non è una passeggiata, no? No, tutt'altro. Sì, no, infatti, tutt'altro. E poi non è neanche poco sì, tempo, no? No, mi piacerebbe guardare su Google Maps quanto ci si mette a piedi dall'Africa a qua. Sì, anche perché poi i mezzi che loro prendono sono tutti mezzi di fortuna, poi adesso lui può raccontare, però spesso, no, prendono magari l'autista, gli dice io vi accompagno fino lì, e poi in realtà ti accompagna prima, poi dice vado a fare una pausa e non torna più, certo, tutti dentro l'autobus, sì, fine della benzina, fine della corsa. No, e quindi insomma tutte queste cose che noi abbiamo appunto raccontato in questo modo. Ne faremo una di Nara Sfilata a giugno. Ah, con dei ragazzi giovani sui 13-14 anni, che con i quali abbiamo fatto anche con loro un percorso di legato ai tessuti, i significati dei tessuti. Si sono molto così presi bene, come si dice, e quindi ci hanno proposto di fare una sfilata, una Nara Sfilata anche qua a Bologna. Anche loro. Sì, dobbiamo ancora decidere, comunque sarà all'aperto e lo diremo ovviamente. Sempre questa prossima primavera faremo anche, cioè in realtà già da febbraio, cominceremo sempre con degli altri giovani per un progetto di cui siamo molto contenti, che è un progetto con il liceo Minghetti e all'interno della materia arte e immagine. E appunto loro ci hanno chiesto di costruire insieme con solo scampoli, quindi solo tessuti che da 5 anni stiamo tenendo da parte, che io dicevo ma cosa ci farò un arazzo. Ah, e quindi faremo questo mega arazzo a più mani. Bellissimo. Infatti sì, è una cosa molto emozionante, ovviamente, dove i sarti faranno la loro parte, i ragazzi anche, insomma. Certo, quindi, certo. E queste sono tutte scuse ovviamente per mescolare le persone, le generazioni, certo. I punti di vista, no? Quindi per noi sono tutti strumenti che poi col tessuto, il colore, è più facile, però insomma hanno anche del senso dietro. Strumenti di apertura. Sì. Poi posso chiederti qualcosa sulle immagini delle razze? Sì, dei tessuti. Io continuo a fare la meta radio intanto. Oscar Moroni mi ha appena scritto che ha appena attaccato il bottone dei jeans con l'attac. Allora dico una cosa velocissima su questa cosa dell'attac, non tanto dell'attac dei bottoni, però tutte le persone che hanno dei capi non soltanto dismessi, ma anche dei capi insomma che non ti raccontano niente, diciamo che un po' il sistema moda consumistico del fast fashion, del comprare, si attacca a quel desiderio un po' così ancestrale che abbiamo di rinnovare la nostra identità, no? Mi rifaccio ad alcune teorie sociologiche. Però il fatto di avere qualcosa di nuovo si può soddisfare anche attaccando delle... Con l'attack dei bottoni. Confuso. No, attaccando per esempio delle toppe, tagliando camicie di padri, di nonni, di fidanzati, di mariti, di fratelli che non usano più e reinventando un capo. Questa è la cosa che io insomma ho sempre amato e ho cercato di fare da sola, ma con le mani esperte di Mamadou e la ricchezza di scampoli e di archivio che ha Maddalena, insomma, sono riuscita a fare qualcosa di mettibile, di veramente veramente carino. Tu pensi che quello che stai indossando sia mettibile? L'angolo della menzione. Naturalmente scherzo, sei sempre fantastica. Cosa volevo dire? Vabbè, come hai sentito, è partita l'angolo della menzione, perché dobbiamo dire un po' di cose. Sabato inaugurano 270.000 mostre, adesso ne racconteremo un po'. Velocissimamente, non vogliamo togliere troppo spazio ai nostri ospiti. Mercoledì invece alle ore 21 abbiamo Alberto Despini che presenta il suo nuovo album, Semplicemente, prodotto da Roberto Casini. E durante la serata verrà proiettato il video del secondo singolo estratto, che si chiama Sarai, e questo è il Bravo Caffè in via Mascarella 1, e Alberto Despini, naturalmente lo salutiamo, che è venuto ospite qui per cantarci alcune canzoni. Lascio a te la menzione successiva. Yeah. E sabato 12 febbraio dalle 16 fino alle 21 Labs Contemporary Art è lieta di presentare Ridisegnare lo spazio a cura di Angela Madesani. La mostra propone i lavori di 4 artisti che lavorano con il mezzo fotografico: Marina Caneve, Giulia Marchi, Andreas Gefeller e Massimo Vitali. Il filo conduttore della mostra è l'idea di una rilettura dello spazio attraverso il linguaggio fotografico. Quindi sabato a Labs Contemporary Art in via Santo Stefano 38. Sempre sabato dalle 16 alle 20 abbiamo Davide Benati con Pagine. Con la mostra Pagine, Davide Benati inaugura la sua prima personale alla 8 Gallery di Bologna. Da sempre legato alla raffinata e complessa tecnica dell'acquerello, di cui esplora ogni sfaccettatura attraverso un filtro che è parte integrante della sua poetica, i fogli di carta di riso nepalesi sovrapposti e incollati alla tela, l'artista dà vita a un universo di forme fluttuanti, transitorie e fugaci, espresse attraverso una pittura colta fatta di suggestioni e di memorie letterarie e personali. E questo è alla 8 Gallery in via D'Azeglio 55. E ancora sabato 12 febbraio dalle 17 alle 20 una performance alle 15 o alle 16 a Studio G7, che presenta Trai, prima mostra personale di Marilisa Cosello negli spazi della galleria. Il progetto, a cura di Luca Panaro, intende presentare l'opera Trai, progetto inedito di itinerante iniziato nel 2020. Il lavoro si inserisce all'interno della ricerca dell'artista, da sempre incentrata su temi quali la costruzione collettiva, il femminile, le strutture sociali, il potere ed il corpo come strumento narrativo. Sabato alla Galleria Studio G7 in via Valdaposa 4A. Olè. Sempre sabato dalle 15 alle 20 abbiamo la Galleria P420 che presenta Gorjan Trbuljak, 45 Years of Non-Paintings, e siccome non c'era scritto nient'altro non vi dico nient'altro. Questa è la P420 in via Avogardino numero 9. Dopodiché, in realtà mi ero dimenticato un'altra menzione, per cui la dico io perché tu non ce l'hai. Al Centro Studi Didattica delle Arti, sempre sabato dalle ore 17, abbiamo Giovanni Ortolani, scultore al Liceo Artistico Arcangeli. La mostra dura fino al 5 marzo e questo è al Centro Studi della Didattica delle Arti in via Cartoleria 9 a Bologna. E abbiamo finito le nostre menzioni. Wow, abbiamo una settimana e un sabato veramente densissimi. Sì, no, fra l'altro inaugurano altre cose che però non sono riuscito a trovare in tempo, tipo il Capannun di San Lazzaro, e poi c'è anche un talk con Fabio Cavallucci alla Galleria Enrico Astuni, sempre in quegli orari lì. Tantissime cose, dovremo sdoppiarci per riuscire a vederle tutte. Esatto. Bene. E vogliamo fare qualche altra domanda? Il tempo è volato. Assolutamente, anche perché qui il tempo stringe, la mia musica di sottofondo è scomparsa, no, ecco che è riapparsa. E i nostri ospiti, appunto, hanno qualcos'altro da raccontare, giusto? Ah, tantissimo. O devo mettere, perché guardo anche questo jingle fantastico che fa così. Non sappiamo cosa dire. E di solito non lo uso mai perché è difficile che non sappiamo cosa dire, però è sempre, no, è sempre simpatico, no, questo è, no, no, Enrico Farnedi, direi che non c'è pericolo, come si dice a Bologna. No, anzi, a proposito di raccontare, no, una... infatti mi piace che gli ospiti, voglio dire, lasciare a voi quello che volete raccontare. No, ti racconto una cosa avventura che ho imparato in questi anni, perché io di tessuti non ne sapevo niente e Mamadou mi ha raccontato che questi tessuti, poi dopo ho studiato eccetera, hanno anche dei significati, cioè il tessuto proprio che uno indossa in Africa, i vari tessuti dei vari paesi, hanno proprio come dei messaggi nascosti. Ma veramente? Ed è bellissima questa tipo cosa. C'è un tessuto, si chiama fiore di matrimonio. Fiore di matrimonio, proprio il nome del tessuto? Sì, sì. Perfetto. Perché in Africa quando fai matrimonio noi usano solo quello tessuto, capito? Ah, ho capito. E se uno si sposa col tessuto sbagliato il matrimonio fallisce, è finita, miseramente. È finita. ho capito. Interessante. E poi c'è anche l'altro, si chiama occhio del mio rivale. Occhio del mio rivale, wow. E lì cosa succede quando, cioè, se sbagli il tessuto dell'occhio del tuo rivale è un casino qua, eh? Cioè, qual è la situazione in cui te lo metti l'occhio del tuo rivale? Beh, diciamo che ci sono, scusa, se io voglio rubarti la fidanzata, cioè io mi sono innamorato della tua fidanzata, che tessuto mi devo mettere? Fiore di sai matrimonio, cosa ti devi occhio mettere? Del tuo rivale. Sai cosa ti devi cosa mettere? Mi devo mettere? Sì. Ti devi mettere Marika Pablo. Sì. Ok. Cioè, mio marito è capace. Ah, vedi. Quindi, attenzione. Che ovviamente è una frase anche un po' tabù, no? Che certo. Attraverso il tessuto. Quindi certo. La donna che lo indossa ha già detto tutto. Quindi state alla larga da mio marito, è mio. Che tessuto è questo? È bellissimo. Sto parlando dei disegni. Sì, perfetto. Il pattern in pratica è come se fosse un piccolo baffetto con tre palline sopra. Noi l'abbiamo avuto in tantissimi colori, è un tessuto semplicissimo, molto fine come disegno, però appunto ha questo significato. E poi diciamo che sul discorso gelosia ce ne sono tantissimi. Allora, per dai, esempio, spara un po' di nomi. Per esempio un po' di c'è nomi. Je cours plus fort que ma rival, corro più veloce che la ma rivale. Ecco, sono questo dei può cavalli, essere utile. Che sono dei cavalli, che uno direbbe invece è tutt'altro discorso. Invece certo. È un pagne. Molto femminile, perché certo. Appunto c'è questo. E poi vabbè, la di Marival mi è venuta un'altra domanda stupida, ma cioè, i tessuti africani sono sempre coloratissimi, ma quando venite in Europa e siamo tutti vestiti di nero, cosa pensate di noi? quando noi arriviamo in Europa, sì. Perché cioè, anche in Africa cioè, noi usano solo cioè, tipo i ragazzi usano il tessuto europeo, certo. Capito? Certo. Chiaro. Tipo qua, quando noi portano quello tessuto qua, voi usate quello tessuto. Certo. Quindi è tipo un cambio, no? Certo. Sì. Certo. Per cui non pensate che siamo dei deficienti, no. Tutti vestiti di nero. No. Che non sappiamo il tipo di tessuto che dobbiamo usare, no? Più che altro per le situazioni. Cioè, tu adesso... Accettate la nostra diversità, diciamo. Sì, certo. Cioè, adesso da che cosa siamo vestiti? Non si sa. Io mi sento senza identità. Sono senza corro più veloce del mio rivale, sono senza fiore di matrimonio. Io invece ho il maglione di mio suocero che poverino ci ha abbandonato, per cui ho questo. Beh, questo è un significato. Esatto. Cioè, il mio significato simbolico oggi è una sorta di tributo a mio suocero. È bellissimo. Bello, bello. Sì. A parte che è caldissimo, per cui infatti sto sudando. Grande, no, è bellissimo indossare le cose, secondo me proprio già di per sé un vestito è un po' un talismano. Ti dirò di più, poco prima che tu arrivassi, tipo un mese fa, abbiamo avuto per ospiti un'associazione che adesso mi dovrei ricordare come si chiama, due ragazze, la mia memoria è un dramma, che una sera cucivano degli scampoli a chi partecipava in questa loro serata. Ma che bello. E siccome appunto le ho incontrate per caso, dopo gli ho detto venite a Coxo Spaziale che ne parliamo, capito? No, infatti era fantastica. Dunque mi sono fatto cucire un pezzettino di stoffa in una felpa, e devo dire che quando mi metto quella felpa mi sento su, cioè un'energia in più, sì, capito? Sì, e io sì. Sono convinto che queste cose funzionino davvero. Sì, no? anch'io. Del resto, poi la moda, voglio dire, funziona. funziona anche per quello, cioè sì. ti vesti bene, ti senti bene e dunque agisci di conseguenza. No, in Europa non si votano niente, perché quando ho conosciuto Maddalena, prima quando io tagliano tessuto, io buttano da quello bidone, ma lei prende quello tessuto, ma non perché buttano quello tessuto? Ah certo. Ma non buttiamo via niente, dice. No, lui era sconvolto all'inizio, che mi vedeva io lì che riprendevo tutti gli scampolini eccetera. Adesso quando io butto qualcosa, lui arriva lì e dice: ma cosa stai facendo? Cioè praticamente ci siamo invertiti i ruoli, perché adesso lui ha capito che con gli scampoli si fanno un sacco di cose, soprattutto con tessuti che vengono da lontano. Senti, però insomma, per finire la carrellata, esatto, dei significati ce ne sono tantissimi, però diciamo che oltre al filone della gelosia c'è tutto il filone legato alla famiglia, l'importanza della donna nella famiglia, tipo la famiglia è un tessuto dove c'è questa grande chioccia e poi intorno uova, pulcini e qualche testa di galletto, e appunto certo. Dice la donna tiene unita la famiglia. Ma poi ce ne sono anche belli di riscatto personale, ad esempio un tessuto che si chiama l'alphabet, quindi appunto l'alphabet. Io ho imparato a leggere, quindi non sono più in una condizione di minorità, ma so leggere, non devo essere schiavo perché non so le cose, quindi vivo nell'ignoranza. E poi c'è tutto una ricchezza di tessuti che sono stati fatti che servono, diciamo, come messaggio sociale, quindi ad esempio tutta la campagna contro l'AIDS è stata fatta tramite i pagni, tramite i wax, quindi le donne che vestivano questi tessuti portavano in giro questi messaggi, sia in disegni che in frasi. E, ad esempio, anche per durante il Covid sono stati creati dei tessuti con scritto prenez soin de vous, quindi prendetevi cura di voi, state attenti. E quindi ecco, è bello perché oltre alla bellezza del tessuto in sé c'è anche proprio un significato dietro, ecco. Cioè come indossare dei come essere dei tableau vivant, come indossare veramente delle scene così molto molto narrative, anche quindi emotive. O anche io ci credo molto a questa cosa del e c'è qualche colore oltre alle immagini, oltre ai disegni, qualche colore nel senso tipo il rosso per la passione, il nero per il lutto, ho detto le più banali proprio. Sì, ad esempio è stranissimo, io ho scoperto che i pagne de day si chiamano, pagne sarebbero i wax. per il day sarebbe il lutto. Sono rossi, neri e bianchi, quindi se uno si veste con un pagne, con un tessuto solo bianco e nero, è un tessuto da funerale, cioè non è il nostro effetto optical, no? Cioè io quasi sono, cioè, e sono in realtà tessuti bellissimi che ovviamente uno vorrebbe mettere e portare anche per altre occasioni, ma anche rosso e nero, che in realtà sono molto eleganti, sono appositamente fatti con spesso disegni di cuori eccetera, da indossare proprio ai funerali, quindi quando poi loro se li vedono qua e dove noi magari ci facciamo dei cuscini dici ma come e quindi insomma c'è anche tutto un discorso da rispettare, da capire, non è semplice. Certo. Non è scontato. Immagino che ci sia anche tantissima gente che avete voglia di ringraziare in questo momento, che collabora con voi in tutti questi progetti, tra via San Mamolo e via Castiglione. Direi che è il momento giusto, anche perché è finito il nostro tempo. Allora, velocissimi, io ringrazio la mia famiglia, Francesca, Elena e Mario, perché senza di loro non saremmo qui. Sì. Vogliamo ringraziare gli altri sarti, le altre persone che hanno lavorato con noi. Ringrazio la famiglia di Maddalena, dopo c'è i miei colleghi, Amadi, Victor. C'è tantissimo. Tutte le persone che ci hanno sostenuto, tutte le persone che hanno creduto in noi, Mia che ci ha invitato, grazie. Stefano che ci ha accolto. Siamo sempre molto contenti, molto commossi. E dunque, quando devo farmi il coso dei pantaloni, come si chiama? L'orlo. L'orlo dei pantaloni, cosa che non ho mai fatto in vita mia, sappiatelo. C'è sempre una prima volta. Devo andare in via Castiglione 59C. E ti trovo, poi magari se mi vuoi mettere qualche fiorellino intorno, qualcosa di energetico, lo prendo volentieri. Io vi ringrazio tantissimo e ringrazio Mia che vi ha portato qui e niente. Allora mi fa il piacere da vederti lì. Assolutamente. Sì, ci vediamo tutti quanti, via Castiglione 59C. Sì. E anche i vostri corsi di cucito, alle sfilate della narrazione. Certo, no, insomma. Mi raccomando, anzi, ve lo dico in diretta, quando fate i corsi di cucito, ditecelo che così li raccontiamo a Coxo Spaziale, così li menzioniamo a Coxo Spaziale, così i nostri ascoltatori possono venire e partecipare. Bene, grazie. Grazie. Grazie Maddalena Papini, grazie Mamadou Camara. Grazie a voi, sì. Grazie, grazie mille. Noi vi lasciamo con le fantastiche ragazze di Indeco Radio. Questa era Coxo Spaziale. Io ero Stefano W. Pasquini. E io ero Mia da Schio su Piei. Adesso prima o poi imparerò il tuo nome preciso. Lo saprò dire con velocità, e dopodiché faremo quello che facevo con Chiara, dove io dicevo che ero Chiara e tu dicevi che eri me. Stupendo. Ci rivediamo. Lotte per le case e amicizia.